Vai. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotti di allineamenti qui su Ciao Radio Como. State ascoltando il programma di allineamenti che dà la buonanotte alla città. Qui è Gas che vi parla e come abbiamo iniziato questa settimana vi parlerò di tennis, la mia grande passione. Nella prima puntata vi ho parlato degli anni 80 di John McEnroe, poi siamo andati negli anni 90 con Pete Sampras nella sua sfida contro Philippoussis. Ora arriviamo alla nostra epoca, quindi questi 20 anni dominati da Roger Federer, nonostante io all'inizio ero un simpatizzante di Marat Safin, ma vabbè. E anche come vi abbiamo detto all'inizio, un grande tennista non può vivere senza un grande rivale. E anche Roger, naturalmente, nel corso della sua carriera, è riuscito ad averne uno che l'ha reso una leggenda. Stiamo parlando di Rafael Nadal. E ora andiamo a vedere questa sfida che, come al solito, non tocca veramente la partita del tennis in sé, ma porta tantissime altre considerazioni, riflessioni e spunti partendo dal tennis. E lo facciamo con David Foster Wallace, con il tennis come esperienza religiosa. La partita in questione è una partita di Wimbledon e siamo pronti a raccontarvela. Eccoci qua. Quasi tutti gli amanti del tennis, che seguono il circuito maschile in televisione, hanno avuto negli ultimi anni quelli che si potrebbero definire momenti Federer. Certe volte, guardando il giovane svizzero giocare, spalanchi la bocca, strabuzzi gli occhi e ti lasci sfuggire versi che spingono tua moglie ad accorrere ad un'altra stanza per controllare se stai bene. I momenti sono tanto più intensi se un minimo di esperienza diretta del gioco ti permette di capire l'impossibilità di quello che hai appena visto fare. È così Roger Federer. È così Roger Federer. E quindi segue il breve e consueto silenzio, attonito che prima il pubblico newyorkese erompa. Giornalisticamente parlando, non ho notizie bomba sul fronte Roger Federer. È a 25 anni il miglior giocatore e tennista vivente, forse il migliore di tutti i tempi. E Roger è così, ha dominato il tennis negli ultimi 20 anni e ora siamo alla finale maschile del 9 luglio e è il sogno di tutti, Nadal contro Federer. È la replica della finale dell'Open di Francia che si è giocato il mese precedente. In quell'occasione aveva vinto Nadal. E questa finale di Wimbledon ha l'epica della vendetta, la dinamica retro tragica, la cruda contrapposizione di caratteri. È il maschilismo passionale del Sud Europa contro la maestria clinica e intricata del Nord. Apollo e Dioniso, bisturi e accetta, destroso e mancino. Stiamo parlando del numero uno e del numero due del mondo. Nadal, l'uomo che ha spinto all'estremo il moderno gioco di potenza da fondo campo, contro un uomo che ha trasfigurato quel gioco moderno, la cui precisione e varietà sono mirabolanti quanto la velocità e lo scatto, ma che di fronte a questo avversario può apparire stranamente intimorito e vulnerabile. Un cronista sportivo inglese, esultando con due colleghi in sala, dice due volte: "Sarà una guerra, sarà una guerra." E una guerra è sempre stata, come abbiamo visto c'è sempre questo combattimento tra Roger e Rafa, come tra McEnroe e Borg, tra Pitt e Andre Agassi. E sembrerà quantomeno strano che al quarto anno del regno di Roger Federer a Wimbledon una simile diagnosi sia ancora lì appesa in bella vista, avendo lo svizzero apportato piccoli tocchi e sottigliezze che nel tennis maschile non si vedevano come minimo dal periodo aureo di John McEnroe. E torniamo qui all'incontro, a collegare il filo dalla prima all'ultima puntata, perché le spiegazioni valide per la supremazia di Federer sono di tre tipi. Il primo chiama in causa il mistero e la metafisica, e a mio avviso si avvicina maggiormente alla verità. Gli altri sono più tecnici e si prestano meglio al giornalismo. La spiegazione metafisica è che Roger Federer è uno di quei rari atleti prenaturali che sembrano esenti, almeno in parte, da certe leggi fisiche. Validi equivalenti sono Michael Jordan, che non solo saltava a un'altezza sovraumana, ma restava a mezz'aria, un paio di istanti in più di quelli consentiti dalla gravità, e Muhammad Ali, che sapeva davvero aleggiare sul ring e sferrare due o tre jab nel tempo richiesto da uno solo. Dal 1960 in qua ci saranno altri 5 o 6 esempi e Federer rientra nel novero di quelli che si potrebbero definire geni, mutanti o avatar. Non è mai in affanno né sbilanciato. La palla che gli va incontro rimane a mezz'aria per lui, una frazione di secondo più del dovuto. I suoi movimenti sono flussuosi più che atletici, come Ali, come Jordan, come Maradona, come Gretzky. Sono tutte cose che contano. Va anche considerato che non mettete un oggetto statico in moto, ma semmai invertite la direzione e la misura variabile, la rotazione di un proiettile che viene incontro, e la velocità nel caso del tennis professionistico, che precludono il pensiero consapevole. Il primo servizio di Mario Ancic, per dire, tocca sempre 210 km/h. Essendo a 23 metri tra la linea di fondo di Ancic e la vostra, questo significa che il suo servizio impiega 0,41 secondi a raggiungervi, meno di quanto ci vuole a battere rapidamente le ciglia due volte. La conclusione è che il tennis professionistico implica sempre un lasso di tempo troppo breve per il gesto deliberato. Ci troviamo, dal punto di vista temporale, più nella sfera operativa dei riflessi, delle reazioni puramente fisiche, che travalicano il pensiero consapevole. Eppure, una risposta efficace al servizio dipende da una vasta gamma di decisioni e aggiustamenti fisici molto più partecipi e intenzionali che battere le ciglia, trasalire per uno spavento, eccetera, eccetera, eccetera. Percezione, tocco, forma, propriocezione, coordinazione, cooperazione, occhio, mano, cinestesia, grazia, controllo, riflessi e via dicendo. Ecco che cos'è il tennis. Un esercizio ripetitivo che spesso il profano considera molto noioso e perfino crudele. Ma il profano non può percepire quello che succede dentro il giocatore. Aggiustamenti minuscoli, incessanti, e un senso degli effetti di ogni singolo cambiamento che si acuisce al progressivo allontanarsi della normale consapevolezza. E il tempo e la disciplina richieste da un serio allenamento cinestetico costituiscono uno dei motivi per i quali i grandi campioni, di solito, sono persone che dedicano la maggior parte della loro vita da svegli al tennis, cominciando dalla prima adolescenza. Federer, che cinesteticamente è un po' più dotato degli atleti professionisti maschili, è appena un pochino più dotato, essendo tutti quelli della top 100 cinesteticamente capaci, ma del resto il gioco del tennis si gioca sui centimetri. È un colpo vincente spettacolare, un momento alla Roger Federer, ma guardarlo dal vivo si capisce che Federer costruisce i punti 4-5 momenti prima. E ripassiamo tutti i grandi campioni che dopo Federer non hanno quasi più senso, memoria: Connors, Bjorn Borg, McEnroe, Land, Anastase, ce ne sono tantissimi. Ma dopo Federer la scelta non si pone più. Roger ha la velocità di Land e di Agassi nel palleggio, ha la forza di Nadal. Il giocatore che l'ha dimostrato è Roger Federer. Roger Federer gioca di potenza da fondo campo, che è una meraviglia, davvero fuori classe, ma non fa solo questo, ci mette anche l'intelligenza, l'intuitiva occulta, il senso del campo, la capacità di interpretare e manovrare gli avversari, di cambiare effetto e velocità, di fuorviare e di simulare, di usare il fiuto tattico, la visione periferica, la portata cinestetica, anziché soltanto la velocità meccanica. Tutto questo ha svelato i limiti e la possibilità del gioco maschile, come adesso è giocato. Che può sembrare molto pretenzioso e garbato, come no, ma vi prego di capire che con questo signore non c'è niente di pretenzioso né di astratto, nemmeno di garbato. Nello stesso modo enfatico, empirico, dominante in cui Landy impartiva la sua lezione, Roger Federer dimostra che la velocità e la potenza del gioco professionistico odierno sono semplicemente lo scheletro, non la carne. In senso figurato e letterale, ridato corpo al tennis maschile, e per la prima volta da anni il futuro di questo sport è imprevedibile. Avreste dovuto vedere sui campi esterni quel variegato palleggio che è stato il torneo juniores a Wimbledon quest'anno. Volé, court, mix di effetti, servizi rallentati, stratagemmi orditi tre tiri prima, il tutto accompagnato da grugniti e dalle cannonate di prammatica. Se tra quelli juniores ci fosse un novello Federer, è tutto da sapere. Il genio non è riproducibile, l'aspirazione, però, è contagiosa e multiforme. E anche soltanto vedere da vicino la potenza e l'aggressività rese vulnerabili dalla bellezza, significa sentirsi ispirati e in modo fugace, mortale, riconciliati. Questo è Roger Federer e questo ha fatto effetto a tutte le persone che si sono appassionate di tennis nel corso della loro vita. E ora non vi posso che lasciare con una canzone molto simpatica e carina che ho trovato su YouTube. È una canzone che un tifoso di Roger Federer ha dedicato al campione svizzero. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, una buona notte da Ciao Radio Como e dalle buone notte di allineamenti. Questo era David Foster Wallace con il tennis come esperienza religiosa. Buonanotte a tutti e ora godetevi la canzone di Roger Federer. Saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.